La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, un'ora con le novità in sala, parlando di grandi film, parlando di Oscar, di Parasite che a sorpresa ha battuto tutti, e di Bong Joon-ho, il regista di cui troviamo in sala un altro film precedente, ma che vale davvero la pena vedere se avete amato Parasite, perché Memorie di un assassino è un grandissimo film. Parleremo con i grandi protagonisti del cinema tra poco, l'intervista con Gabriele Muccino, che ci racconta Gli anni più belli, il suo nuovo film con Kim Rossi Stewart, Claudio Santamaria, Michela Ramazzotti e Pier Francesco Favino, e con Walter Veltroni, che invece ha firmato il bellissimo film sul mitico concerto della PFM di De André, ritrovato in videocassette che erano finite in un magazzino in fondo al quale giacevano e che sono state restaurate e ci ridanno la straordinaria potenza di quel concerto, che è diventato iconico addirittura nella storia della musica italiana. Insomma, tanto cinema, tanti ospiti, come sempre giocheremo insieme col nostro film misterioso, e quindi preparatevi, perché anche questa oggi giochiamo con un titolo importante della stagione che si è appena conclusa. E allora cominciamo però con il cinema per ragazzi, il cinema family, perché c'è un film che arriva nelle sale cinematografiche italiane, metà animazione, metà live action, con Jim Carrey, volti conosciuti, Jim Carrey, James Marsden, la regia di Jeff Fowler e un riccio supersonico che è il vero protagonista del film. Si intitola appunto Sonic, l'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Mi chiamo Sonic, una piccola palla blu di super energia in un pacchetto molto fascinoso. E per salvare il mio pianeta, sono dovuto venire sul vostro. Dove sono? Che anno è? The Rock è presidente? 20 minuti fa, un sovraccarico ha provocato un blackout in tutto il nord-ovest del Pacifico. Chi c'è? Perché eri nascosto nel mio garage? L'esercito sta venendo a prendermi! La storia l'ha già spiegata lui e non è poi così originale. Il riccio blu, che corre più veloce del suono, deve salvare il suo pianeta. Per farlo deve passare dal nostro, dove trova un amico e un cattivo lo insegue. Si potrebbe dire che è come un videogioco, ma in realtà riesce a prendere la forma del film, la pellicola tratta da uno dei videogame più noti al mondo, con un eroe creato dalla Sega negli anni 90. Fermo! Non fargli male! Spaziale! Una gita! Ma non è possibile! Oh mio Dio, fermati all'istante! La palla di elastici più grande del mondo! Dobbiamo vederla! No, questo non è un piacevole viaggio di famiglia! Hai ragione, era deludente. Il negozio era fico, però. Ci nascondiamo qui. Ora che cosa facciamo? Wow! Ti faccio vedere come si fa! Vogliamo andarcene? Sì, è ora. L'ufficiale del Dipartimento di Polizia di San Francisco, ora sceriffo di Green Hills, Tom Wachowski, James Marsden, va a San Francisco per aiutare Sonic a sconfiggere lo scienziato pazzo, il dottor Ivo Robotnik, un esperto di robotica che gli dà la caccia e che è interpretato da Jim Carrey. Sonic deve raccogliere i suoi anelli per impedire a Robotnik di usare i suoi poteri per dominare il mondo. Pensi di poter fuggire da me? Ah, oh, questo è carino! La macchina è assicurata, vero? Ah! Stai per morire. È il massimo che sai fare? No, ma grazie della domanda. Arriva il boom! Perché non sei morto? Non ne ho idea! La storia potrebbe sembrare semplice, ma la lavorazione è stata travagliata. Ci sono voluti 7 anni dall'acquisto dei diritti al film, compresa una totale revisione del primo progetto, perché il Sonic troppo diverso da quello del videogame non era piaciuto a nessuno. Alla fine tutto è tornato nei canoni e il film risulta un action con fumetto, che non è poi così male da vedere in famiglia, grazie anche alle interpretazioni degli attori. E questo era Sonic, il film con cui abbiamo aperto La Rosa Purpurea. Adesso sentiamo i consigli per chi viaggia, poi fra poco andiamo in atmosfera Oscar, torniamo indietro di qualche giorno e ripartiamo da lì, ripartiamo dalla statuetta, dalle 4 statuette a Parasite e dal ritorno di Bong Joon-ho nelle sale italiane con un altro film precedente ma distribuito adesso meritoriamente, si intitola Memorie di un assassino, fra poco. La Rosa Purpurea. Ti cedo il mio posto per fare il suo insegnante di inglese. Ma non ho un diploma. Inventane uno. Assisto sempre alla prima lezione. Is it okay with you? Io credo che mio figlio sia un artista nato. È uno scimpanzé, vero? È un autoritratto. Pazzesco. Nessuno dei suoi insegnanti d'arte è durato più di un mese. Mi è appena venuta in mente una persona, aspetti. Dobbiamo prendere il loro posto. I ricchi sono davvero dei fessi. Sono ricchi, ma anche gentili. Sono gentili perché sono ricchi. La filosofia di Parasite in questa clip con cui apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea. Torniamo indietro di qualche giorno, torniamo lì agli Oscar, alla notte delle stelle a Hollywood con Bong Joon-ho che ha detto berrò tutta la notte, chissà se poi l'ha fatto davvero, dopo aver ricevuto il quarto Oscar su 6 nomination, il più importante di tutti, quello che cambia la storia degli Oscar, cioè l'Oscar per il miglior film per la prima volta a un film non in lingua inglese. E poi gli altri sono Oscar pesanti, miglior film straniero, la sceneggiatura, insomma, tutte cose che nel cinema hanno ovviamente un grande peso. Parasite è tornato subito dopo gli Oscar in sala, brava l'Academy 2 che lo ha riproposto, e sta avendo un successo clamoroso, come del resto aveva avuto nella sua prima emissione, diciamo così, dove aveva quasi raggiunto i 2 milioni di euro di incasso. Ebbene, da quando è riuscito è tutti i giorni il film più visto di Aldo, Giovanni e Giacomo, più visto di Birds of Prey e di Margot Robbie. Parasite con le code al botteghino, c'è tanta voglia di vedere, perché evidentemente gli Oscar ha fatto da lievito a questa situazione. E adesso questa settimana arriva in sala un altro film di Bong Joon-ho del 2003, di 17 anni fa, ma che vale assolutamente la pena recuperare, Memoria di un assassino, perché è veramente un capolavoro. Insomma, cerchiamo di mettere ordine in tutta questa Asia che si è riversata nelle sale cinematografiche italiane con Boris Sollazzo. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo lì. Oscar con Parasite, che trasforma le 6 nomination in 4 statuette, le più importanti. Joker, che porta a casa il miglior attore, e ci mancherebbe altro, però forse rimane un po' deluso da non aver vinto il miglior film, così come 1917, e invece tabula rasa per The Irishman di Scorsese. Quest'anno più che mai gli Oscar hanno voluto andare in una direzione nuova, e il pubblico in Italia e non solo li sta seguendo. Li sta seguendo perché risfruttare Parasite è più facile che risfruttare magari grandi film che avevano già avuto il loro corso commerciale. Li sta sfruttando perché dopo tanti anni, forse per la prima volta, vince il migliore di gran lunga, che mette d'accordo il pubblico e la critica, pubblico che insomma aveva già premiato Parasite, perché nel sfruttamento worldwide aveva fatto più di 130 milioni di euro, e adesso insomma andrà ancora più avanti. Su Joker ce lo si poteva aspettare, perché le polemiche politiche sul film erano state molto gravose, e il regista non faceva parte del cerchio magico del cinema d'autore americano, e lo stesso investimento produttivo era stato basso, quindi probabilmente non si era riusciti a creare e a trovare la lunga di Venezia. 1917 è la sorpresa in negativo. Si pensava che perlomeno nel manuale Cencelli dell'ultimo Oscar, in cui miglior film e miglior regia di solito venivano dati a due film diversi, Mendes potesse trovare soddisfazione. Irishman dispiace, ma insomma tutti gli altri premi avevano già sancito che sarebbe uscito abbastanza a mani vuote. È un Oscar interessante, come al solito Hollywood decide di dire anche un po' la sua su quello che accade attorno a sé, e quindi in un'America che erige muri con il proprio presidente, l'Oscar li abbatte. Non è la prima volta, non mi stupirebbe adesso che magari nel 2021 ci ritroveremo con molte candidate donne. Certo, potrebbe essere il turno giusto. Tra l'altro, singolare che ormai Venezia la vince Joker e gli Oscar li vince Parasite. Qui siamo veramente alla rivoluzione dei ruoli. Parliamo di Memoria di un assassino, però, perché è vero che è del 2003, è un film che però in Italia non si è visto, sebbene premiato al Torino Film Festival, ma è un vero, vero capolavoro, un gioiello di genere. Sentiamo la clip. Sì, pronto. L'omicida agisce di notte e quando piove. E poi i vestiti rossi. Le vittime indossavano qualcosa di rosso. L'omicida colpirà di nuovo stasera. Non abbiamo un solo testimone, né uno straccio di prova. Come si fa senza niente? Posso fidarmi? È una storia, la storia di un serial killer e della caccia a un serial killer nella Corea dell'86. Il film è del 2003 ma è ambientato nella Corea dell'86. Si parte dal ritrovamento di, un cadavere di una ragazza, l'ennesima violenza sessuale poi culminata in un omicidio, e da una squadra di poliziotti di campagna totalmente inadeguata, addirittura grottesca, nella ricerca. Viene chiamato da Seul un ispettore giovane ma sicuramente più dotato. Molti conflitti fra i due tipi di poliziotti, tra l'altro anche abbastanza comici, perché come sempre Bong Joon-ho è uno che mischia i generi da dentro, cerca un po' di rivoltarli, anche di rivoltarli uno contro l'altro in qualche modo, e poi piano piano si va sempre verso più verso il climax più alto del film. Gli omicidi sempre preannunciati da una stessa canzone richiesta alla stessa radio, sempre in un giorno di pioggia, sempre con l'omicida che vestiva con qualcosa di rosso. Boris, è un film che mi sorprendo, perché tutte le volte il cinema americano è sempre attento a fare remake di film così perfetti nella loro costruzione. Sì, verrebbe da dire che probabilmente True Detective qualcosa ha preso da quel mood e da quell'atmosfera. Credo che Bong Joon-ho sia stato un po' scippato da vari film piuttosto che avere un remake, vari film e serie televisive. L'hanno detto in tanti in questi giorni che quell'Oscar non era stato dato a un esordiente, a uno sconosciuto, ma a un maestro che appunto da 20 anni fa cinema e che già nel 2003 da Torino a San Sebastian aveva sbancato i festival con questo film, che è un film pazzesco perché racconta in una maniera sconvolgente le ombre dell'animo umano dalla parte giusta, tra virgolette, nel senso che è vero che c'è il serial killer, è vero che c'è dell'efferatezza e un meccanismo di sceneggiatura perfetto che ti appassiona al genere, esattamente come succedeva a Parasite, ma c'è come sempre anche in Bong Joon-ho anche una capacità enorme di raccontare per metafora, in un gioco di specchi, che cos'è la società che accoglie questo tipo di storie. La parte giusta è quella di due poliziotti che dovrebbero fare la cosa giusta, che dovrebbero dirci come agire nel migliore dei modi per riportare la verità, e sono i primi invece depositari della menzogna, sono i primi a macchiarsi del delitto peggiore, quello di non proteggere chi viene colpito dal serial killer, ma quello anche di colpire chi è innocente. La corruzione dell'animo non è solo nel male riconosciuto, cioè in chi versa il sangue, ma anche in chi invece cerca di lavarlo mettendolo sotto al tappeto. E tutto questo è anche un modo per raccontare una Corea del Sud e un regime che pochi conoscono, ma che lui ci fa vedere in controluce in maniera sconvolgente. Ricorda in qualche modo molto cinema di genere sudamericano degli anni precedenti, in cui si raccontava in particolare l'Argentina di Videla attraverso storie di criminalità più o meno comune, e in cui c'era lo stesso tipo di ambiguità, lo stesso tipo di torbido che si andava a trovare in ogni angolo delle storie che venivano raccontate. Verrebbe quasi da dire, per chi avesse la fortuna di andarla a vedere adesso in sala, che forse Memoria di un assassino meritava l'Oscar già allora, che Parasite è un filo meno bello di questo, che come hai detto tu è davvero uno dei rari film perfetti che io ho visto nella mia vita di spettatore e di critico. È difficile trovare un difetto, e per una volta vi dirò, non ho nessuna voglia di farlo. Memoria di un assassino, quindi, Bong Joon-ho, che avrà addirittura due film in contemporanea nelle sale cinematografiche italiane, è davvero una cosa davvero bizzarra. Peraltro vi ricordo che arriva nelle sale questa settimana anche Il lago delle oche selvatiche, film cinese, un altro noir di grandissima fattura e molto molto efferato, nella storia di un uomo che esce dal carcere e finisce in una brutta situazione nella quale c'è l'uccisione di un poliziotto, quindi insomma se la passa male. Altro film passato al Festival di Cannes, esattamente come Parasite. Noi invece giochiamo insieme, perché dobbiamo farvi ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi. Mia signora! Che c'è? Ho una piccola notizia. Parla dunque. Chi è la signora, la mia signora a cui si riferisce questa clip? Se avete già individuato il film, scriveteci il titolo completo, mi raccomando, e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due Blu-ray per voi, più tardi facciamo ascoltare un'altra traccia. Adesso, linea alla regia, fra poco con Boris Tollazzo parliamo degli anni più belli e ascoltiamo Gabriele Muccino. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic, fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22:30 e la domenica alle 14 su Radio 24. La rosa purpurea. Eravamo tutti così affamati di vita. Come ti chiami? Gemma. Gemma! Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l'abbiamo fatta. Che figata! Ma lo sai che significa? Che non ci abbiamo i soldi, i capocci sbattono fuori di casa! Io t'ho sempre voluto bene! T'ho sempre voluto bene! Da ragazzese siamo fatti un patto. Te lo ricordi? Con le ferite dei cuori, le spalle di fardelli noi. Le note di Claudio Baglioni con Gli anni più belli, la canzone che è appositamente scritta per il nuovo film di Gabriele Muccino, appunto. Gli anni più belli con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stewart, Claudio Santamaria. La storia che si svolge su due assi temporali diversi, quello di un gruppo di ragazzi, di amici sedicenni nella Roma dei primi anni Ottanta, con tutta la vita davanti, parafrasando un celebre film italiano, e poi quella invece di quello che questi ragazzini sono diventati, cosa sono diventati da grandi, che compromessi hanno fatto, che compromessi non hanno fatto a volte, pagandone le conseguenze in prima persona. E al centro un amore, che è stato l'amore di tutti e tre. Il volto è quello da grande di Micaela Ramazzotti, il personaggio è quello di Gemma, ed è una donna che si ciba dell'amore degli altri, ha bisogno di questo proprio per sostanziare la sua esistenza. È una riflessione ampia, quasi 40 anni su una generazione, e sappiamo che Gabriele Muccino è stato sempre il cantore di generazioni, soprattutto nei suoi primi film italiani. Italiani, mai però aveva affrontato un arco di tempo così ampio. Un Gabriele Muccino che è molto a suo agio nel racconto del sentimento, quando il film va sulle corde del melodramma e comunque della drammaticità è sicuramente ben gestito, forse un po' meno nei momenti in cui si tenta di introdurre la storia con la S maiuscola dentro questa cavalcata di sentimenti e di umanità, perché poco sembrano centrare la caduta del muro di Berlino, l'avvento di Mani Pulite o la discesa in campo di Berlusconi dentro questo quadro. Però un film col cuore, come Muccino ha mostrato più volte di saper fare. Boris. Se un giorno mi avessero detto che la mia generazione avrebbe avuto la colonna sonora di Claudio Baglioni, non ci avrei creduto, e invece ci sta bene. Il debito enorme che il cinema di Muccino ha verso Ettore Scola forse si palesa e si esplicita finalmente proprio in questo film, che a mio parere nelle imperfezioni trova forse la sua forza. È un po' come il personaggio di Gemma, no? Che è una sorta di angelo, di donna ideale, ma che anche mille spazi di frattura, di dolore, di incapacità di amare quanto è amata. È un film che è necessario anche per rappresentare qualcosa che non è stato rappresentato. Come dici tu, forse ci sono due parti del film che non funzionano tantissimo, che è quella che consegna ai giovani che sono bravi ma che vivono diciamo la frenesia, le urla del cinema mucciniano, che insomma è stato anche parodizzato dai The Jackal, che ricordiamo, ma che comunque Muccino tiene alla grande. E poi l'intervento della storia, che a volte sa un po' di Meglio Gioventù, sembra un po' attaccato artificiosamente, anche se trova poi una sua fluidità a modo suo, perché Muccino poi ha un modo di dirigere gli attori e di girare che riesce poi alla fine anni a tenere tutto insieme. Ne esce fuori un film che racconta una generazione che così non era mai stata raccontata, alla scuola, se vogliamo, no? Un po' romanzo popolare, un po' C'eravamo tanto amati, ma anche con lo stile di Muccino al 100%. In questo senti proprio anche la freschezza di neocinquantenne di Muccino, che avevi visto anche A casa tutti bene, che non si nasconde le ambizioni di guardare uno spettro più ampio, no? Non di guardare una generazione in un certo momento e in certi giorni e in certi frangenti, ma di allargare lo sguardo, di cercare di capirli meglio. La cosa più interessante è che un po' la rivoluzione è che le figure maschili di Muccino qui trovano una maturità che in passato forse non gli avevamo visto in maniera così forte, proprio nella destrutturazione, cioè proprio nella mancanza di certezza, proprio nella loro debolezza e nella loro fragilità. E alla fine devo dire che Muccino sa raccontare le sue storie come nessuno saprebbe fare, e gli sa dare un'epica modernissima che funziona. Faccio parte di quella generazione e mi sento pienamente rappresentato. E allora questo è l'endorsement di Boris Sollazzo per il film Gabriele Muccino, Gli anni più belli. Sentiamolo allora, Gabriele Muccino, qui da noi alla Rosa Purpure. Partiamo un po' dal centro del cuore del film, un vero inno all'amicizia e alla durata, alla forza del legame di amicizia che sembra essere praticamente inscindibile. L'amicizia viene messa a prova, a dura prova, dal tempo che scorre. Il tempo è il nostro maggiore alleato e nemico. Il tempo nel suo incessante scorrere ci modella, ci impone continuamente una lunghissima serie di imprevisti. Ogni imprevisto, ogni singolo imprevisto comporta una scelta che non ne faremo, e ogni scelta è come uno scambio di un binario, porta la nostra esistenza ad andare in una direzione. Quindi la somma di queste scelte definisce il nostro destino, e il film quindi parla proprio di quanto il tempo sia il burattinaio delle nostre esistenze e di come un'amicizia, nel caso specifico, venga messa alla prova del tempo, quindi della erosione degli ideali, dei sogni, degli innamoramenti, dei tradimenti, delle velleità e delle ambizioni a cambiare il mondo, a renderlo migliore, a plasmarlo meglio di come non avessero fatto i nostri genitori. Tutto questo, che è quello sguardo verso l'infinito che si ha quando si è adolescenti e che il film anche racconta, viene poi eroso dal passaggio del tempo che ci modifica, ci porta a essere posseduti da quello che possediamo. Perdiamo la libertà di scegliere la mattina cosa fare la sera, diventiamo uomini e poi diventiamo genitori, e la vita prosegue attraverso i nostri figli che, come nel film, ripartono esattamente dove i protagonisti adolescenti iniziano la loro storia. Tre amici e una ragazza, potremmo un po' definirlo anche il tuo film, però questi tre amici sono persone molto diverse. Volevo chiederti come hai lavorato questi archetipi, li hai avuti come amici nella vita, li hai visti, perché hai scelto queste figure? È un po' tutto, sono un po' degli archetipi anche in qualche modo, li ho avuti anche nella vita, sono degli archetipi umani. Tracciano un po' tre esempi e anche esemplari di comportamenti degli uomini messi sotto la pressione della vita, e aggiungo anche il personaggio di Gemma, di lei, perché anche lei viene messa alla prova del tempo, della vita, dello smarrimento, del non sapere chi è, della ricerca della propria identità, della propria persona, di un'ambizione che non c'è inizialmente, del giudizio degli altri che ti guardano, ti osservano e ti giudicano e ti fanno sentire spesso inadatta. Tutto questo ho cercato di raccontarlo in questo film attraverso quattro personaggi che, attraverso le loro incompiutezze, ma anche le loro riflessioni su ciò che attraversano e che poi divengono, raccontano i motivi per cui le nostre vite sono andate in varie direzioni, a volte così diverse da quelle che noi ci aspettavamo. Ecco, sai che vedendo il film, Gabriele, ho riflettuto sul fatto se gli anni più belli del titolo fossero quelli che vediamo trascorrere e quindi ci fosse un aspetto nostalgico in questa affermazione, in questo titolo, o forse quelli che raggiungiamo a un certo punto con l'equilibrio, perché come dicevi tu, il tempo è vero che è il nostro più grande tiranno e burattinaio, ma è anche a volte galantuomo e riesce a farci fare pace con noi stessi. Forse gli anni più belli sono anche quelli che devono venire quando raggiungiamo un equilibrio. Devo dire che mi sembra di poter dire che il film non sia un film nostalgico, non è un film malinconico, è un film riflessivo su quello che la vita ci ha dato e ci ha tolto, ed è anche un film in cui a un certo punto i quattro si ritrovano e si sentono anche pacificati. È come una tregua durante una lunga guerra che ognuno di loro individualmente ha combattuto, e in un ritrovarsi nelle cose più semplici c'è un po' il senso della vita, cioè, ovvero un sorriso, un convivio, una risata vale molto di più di quanto a volte la sete di soldi, di potere, di dominazione, di controllo sugli altri possa apparirci. Siamo reduci della notte degli Oscar, dove il cinema americano celebra se stesso e celebra il cinema. La tua parentesi americana, come l'hai archiviata nella tua carriera? Intanto la ritieni archiviata, la ritieni chiusa, potrebbe riaprirsi? Cosa ti ha dato? Mi ha dato una seconda vita, perché io sono stato portato in quell'industria per una serie di coincidenze astrali irripetibili. Mi sono trovato a gareggiare nella squadra più potente del mondo, nel più grande stadio immaginabile, e a fare dei film di grandissimo successo. Tutto ciò è stato un rivisitare quello che era accaduto in Italia con L'ultimo bacio e il successo che L'ultimo bacio portò con sé nella mia vita, ma in modo esponenziale La ricerca della felicità lo ripropose al mondo intero. Solamente in Cina so che la prima visione televisiva fece 300 milioni di telespettatori. Per cui, insomma, quando si parla di questi numeri, comunque devi accettare il fatto che hai parlato al globo, al pianeta, ed è una cosa che resterà con te per sempre. Quindi, alla luce però di tutto questo, io ho fatto esperienze che sono difficili anche da raccontare, perché sono troppo lontane dallo scibile di un cineasta che lavora in un paese come l'Italia. Però tu in America ci tornerai. Io se mi viene offerto un progetto interessante nel quale mi senta protetto, perché poi la protezione del produttore e la fiducia incondizionata deve esserci. Io ho fatto 4 film, 2 sono stati un viaggio nel paese delle meraviglie, perché avevo Will Smith che mi costruì una cortina proprio invalicabile intorno per preservare la mia creatività e la mia libertà espressiva. E quei 2 film non facili furono un'espressione pura della mia capacità artistica e di messa in scena. Il terzo film invece fu il contrario, fui ingoiato da un ambiente tossico di 11 produttori che mettevano bocca su ogni scena, su ogni movimento di macchina, su ogni scelta artistica che facevo, e questo mi spiazzò, perché non me l'aspettavo che fosse così feroce quel sistema, ma mi incendiò un disincanto proprio anche nei confronti di quel sistema. Poi accadde che arrivò un'altra proposta, che fu Padri e figlie, che fu invece un film che ho fatto e che ricordo con piacere, un film fatto con armonia, con grandissimi attori, Russell Crowe e Amanda Seyfried in primis, e per il quale ho affetto. Però quando feci quel film avevo già trascorso circa 12 anni in America ed ero stanco proprio del sistema, cioè del modo di vivere che hanno gli americani e che è così diverso dal nostro. E questa insofferenza mi ha portato a voler tornare a vivere nel nostro paese, perché in modo semplice è un paese che permette uno stile di vita più alto, e parlo proprio di stile di vita, cioè il fatto di conviviare, di ridere, di conoscersi, di parlarci senza avere sempre di mezzo la pedina del business, è un grande plus che non sappiamo di avere ma che invece abbiamo. Grazie Gabriele. A voi. Gabriele Muccino e le sue confessioni anche sulla sua parentesi americana qui alla Rosa Purpurea. Noi salutiamo Boris Sollazzo. Ciao Boris, ci sentiamo fra 7 giorni. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora invece noi vi dobbiamo una seconda traccia del film misterioso di oggi. Non chiederò il tuo perdono perché ciò che ti ho fatto è imperdonabile. Mi ero smarrita nell'odio e nella vendetta. Siccome si tratta di un sequel, siamo buoni, vi diciamo mettete tutto il titolo, mi raccomando, per individuare il film misterioso e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it. Due Blu-ray che vi aspettano, fra poco sveleremo il titolo. Adesso Linea la viabilità e poi la grande musica della PFM e soprattutto di Fabrizio De André, che rivive in un bellissimo film. Sarà con noi Walter Veltroni fra poco. Passione per gli altri? Per il movimento? Corsa, bici, altri sport? Passione per il verde? Passione per i viaggi o per la musica? Qualunque sia la tua passione, Radio 24 te la farà vivere ogni domenica dalle 14 alle 20 con Passione Domenica. Radio 24. La passione si sente. La rosa purpurea. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Fabrizio era un visionario. Aveva le idee talmente chiare che doveva stordirsi per salire sul palco. PFM, Fabrizio De André. Nacque l'idea di fare un tour insieme. E allora le note sono quelle del pescatore di Fabrizio De André nella versione resa mitica dal disco che penso fosse praticamente in tutte le case di chi oggi ha fra i 50 e i 60 anni, per intenderci. Davvero quel concerto PFM De André insieme dal vivo ha contrassegnato un'epoca ed è rimasta una delle esperienze della musica popolare italiana più belle, più importanti e più durature, tant'è vero che ancora oggi ci sono tantissimi giovani che quelle canzoni le cantano e le ripropongono nei concerti, le cover band, le tribute band, in quella maniera, con quell'arrangiamento che fu proprio quello che la PFM diede alle straordinarie canzoni di Fabrizio De André. Era il 1979, il 3 gennaio, al padiglione C della Fiera di Genova, Fabrizio De André e la PFM in un concerto per la città, per la sua città, appunto, Genova. Era un po' una chicca, perché De André non era molto molto favorevole tanto a fare concerti quanto a farsi riprendere. I concerti già da qualche anno aveva cominciato a farli, ma sempre con le canzoni nella sua versione originale. Sul farsi riprendere il veto rimaneva, però quella volta Fabrizio De André autorizzò una persona che chiese di poter riprendere, però stando nascosti, senza praticamente apparire, senza farsi vedere. Fu data l'autorizzazione, ma quel concerto non andò mai in onda da nessuna parte, venne semplicemente registrato su delle cassette magnetiche che poi finirono in fondo a un magazzino per 40 anni. Quando arrivò il momento di digitalizzare questo archivio, vennero fuori queste cassette. A questo punto è partita anche il progetto di Franz Di Cioccio, cioè quello di mettere insieme questo materiale, di provare a vedere con Dori Ghezzi, compagna di vita di Fabrizio De André, se se ne poteva fare un lavoro più ampio. Lì è stato coinvolto Walter Veltroni alla regia. Ormai l'attività di regista di Veltroni è assolutamente consolidata ed è venuto fuori questo film, che è una vera e propria chicca, che arriverà nelle sale il 17, 18 e 19 febbraio, ovvero martedì, mercoledì e giovedì della prossima settimana. Il titolo è Fabrizio De André e PFM, il concerto ritrovato, ed è veramente un ritrovamento, come quando si scopre una reliquia che stava in fondo a un baule. Un film molto interessante anche nella struttura, perché Veltroni prima, nella prima mezz'ora, ci introduce all'atmosfera sociale, politica, civile di quel momento, di quel 79. Erano anni di contestazione, ogni concerto praticamente vedeva l'assalto dei cosiddetti autoriduzionisti che volevano entrare gratis, scontri con la polizia. Tutto questo si racconta, e si racconta attraverso testimonianze dell'epoca, ma anche testimonianze nuove, quelle appunto di Franz Di Cioccio, Patrick Givas della PFM, Dori Ghezzi e Davide Rondino, che aveva il compito di aprire quel concerto di Fabrizio De André. E poi invece comincia la magia, comincia il vero e proprio concerto riproposto praticamente per intero, senza più interruzioni, con inquadrature, verrebbe da dire di fortuna, diciamo di servizio, che sono prive di qualsiasi sovrastruttura, sono inquadrature che ti fanno innamorare soprattutto della straordinaria voce di Fabrizio De André. Il sonoro è stato restaurato in maniera veramente notevole, e anche della, come dire, degli arrangiamenti che la PFM, aggiungendo rock a quella canzone d'autore straordinaria, aveva portato. E viene fuori un film che è un vero viaggio nel tempo, ma anche dentro il cuore di una musica davvero immortale. Lo ameranno tutti quelli che hanno amato De André, lo ameranno anche quelli che lo conoscono poco, perché è un film davvero straordinario. Noi abbiamo incontrato Walter Veltroni qui a Milano, e gli abbiamo chiesto di raccontarci un po' appunto come è nata questa esperienza. Sentiamo. Walter Veltroni, un grande piacere davvero ancora ritrovarti qui alla Rosa Purpurea per parlare di questo nuovo film. Fabrizio De André, PFM, quasi un binomio che è diventato un'icona di anni, di un tipo di musica e di come si potessero mischiare i mondi. Cosa ti ha affascinato di questo progetto? Ma un po' l'idea di ritrovare da uno scrigno qualcosa che si pensava fosse sparita. La documentazione di uno dei tour più importanti che ci sono stati nella storia della musica italiana, diciamo, della seconda parte del Novecento, e che testimoniava dell'incontro di due forme musicali molto diverse tra loro. E quindi mi è fatto particolarmente piacere poter accompagnare tutto questo, inquadrandolo, diciamo, ecco, facendo raccontare ai protagonisti il clima di quegli anni, le ragioni delle loro scelte, e restituendo anche spero l'intensità e la profondità di Fabrizio De André e della PFM insieme. Una cosa che colpisce tantissimo vedendo il film è la totale assenza di sovrastrutture di queste immagini, che sono un po' come nei sogni, no? Dove non hai contorni, hai solo quello che vedi frontalmente. Sì, è così. Io ho voluto mantenere l'integrità del concerto, non interromperlo mai, perché ci tenevo che lo spettatore vivesse il concerto, sentisse la meraviglia della voce di Fabrizio, la bellezza degli arrangiamenti della PFM, e soprattutto avesse la percezione di questa, che è una conferma: quando due diversità si incontrano, generano sempre una meraviglia. C'è un momento simbolico nel film che è il sotterramento e soprattutto il disotterramento di un oggetto che è diventato oggi oggetto croce e delizia della nostra quotidianità, cioè il telefono. E mi viene in mente anche cosa sarebbe stata oggi la regia di un concerto. Certo, come quello, stacchi sul pubblico, facce che piangono, sarebbe stata una cosa dove ogni immagine durava un secondo. C'è forse anche che per vivere la magia in questo modo serve riportare uno a uno il rapporto fra quello che vedi e la tua anima? Sì, è come gli occhi, è lo spazio degli occhi. Non sono un drone gli occhi, ecco, sono legati a noi, e così è questo concerto, diciamo, è nato così, e abbiamo solo lavorato per renderlo, dal punto di vista del suono, fantastico, dal punto di vista delle immagini si è fatto quello che si poteva fare per restituire il senso di quel concerto, ma poi abbiamo appunto, l'abbiamo incastonato dentro una specie di viaggio nel tempo che consente allo spettatore di immergersi anche nel clima civile, culturale, sociale di quegli anni. Mi viene in mente che se c'è una chiave della tua cinematografia che mi colpisce è quella di raccontare chi sapeva parlare alla gente, chi arrivava forte e autorevole al cuore della gente. Cosa abbiamo smarrito per strada, per cui siamo arrivati a un punto in cui chiunque ci parli pensiamo sempre di poterla sapere più lunga noi? Ma sai, si è fatto strada un certo egoismo, una certa semplificazione, una certa rissosità che a me non appartengono, e mi piacciono le persone che hanno tenuto la spina dorsale, no, dritta, e che però al tempo stesso non hanno mai pensato di essere gli unici ad aver ragione. A chi faresti raccontare una nuova storia in questo senso? Ma forse a dei ragazzi che in questo momento si impegnano pensando al futuro della loro vita e che scelgono di recuperare un protagonismo sottraendosi ad una sorta di ineludibilità della storia, che è quella che, sottraendosi alla quale, abbiamo segnato le più belle pagine di progresso della civiltà umana. Grazie. Grazie a te. Walter Veltroni alla Rosa Purpurea, PFM De André, il concerto ritrovato 17, 18 e 19 febbraio nelle sale cinematografiche. Noi, come sempre, verso il finale della trasmissione passiamo un po' ai film da vedere o rivedere in casa, partendo dal nostro game di 7 giorni fa. La smette di infastidire mio figlio? Se non lo stavo infastidendo. La smetta! La risata di Joker, il film che è valso a Joaquin Phoenix l'Oscar per il miglior attore. Riceveranno il Blu-ray di Joker Nicoletta Galuppo di Padova e Sara Leon di Pordenone, due nostre ascoltatrici, quindi, per il film Joker, che ci facciamo raccontare in questa versione Blu-ray da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, sicuramente uno dei casi dell'anno, un cinecomic d'autore, anche se l'autore, il Todd Phillips di Una notte da leone, nessuno pensava lo fosse, un film a budget ridotto rispetto alle superproduzioni, in omaggio al grande cinema americano degli anni 70, Scorsese in primis. Un'opera di impianto realistico, tanto da essere una chiara e precisa allegoria della realtà che abbiamo intorno. Una visione cupa, apocalittica, critica del mondo di oggi, tra Homo Homini Lupus, spettacolo imperante, disagio psichico dilagante e populismo dietro l'angolo. In fondo il film racconta la nascita di un nuovo capopopolo violento come ce ne sono tanti oggi. Blu-ray che meglio non si potrebbe, video eccellente, meglio direi che c'è solo il 4K, audio inglese superbo, un po' meno quello italiano che si limita al 5.1 e 30 minuti di extra, pochi ma buonissimi. Assolutamente gli extra valore aggiunto anche di questa edizione Blu-ray di Joker. Invece Giulio, dai palinsesti televisivi della prossima settimana abbiamo scelto un film marchiato Film TV, che è una commedia che ebbe anche grosso successo anche in Italia, dove guadagnò più di 4 milioni di euro di incasso, con nel cast Vince Vaughn, Jennifer Aniston e Jon Favreau. Si intitola Ti odio, ti lascio, ti puntini puntini puntini. Sì, il titolo originale è The Breakup, la rottura, ed è quella che concerne ovviamente una coppia di cui nessuno dei due componenti è interessato a lasciare l'appartamento in cui vivono. Comincia la guerra. Mi vuoi dire che ti sei arrabbiata perché non ho lo sfrenato desiderio di lavare i piatti? No, mi sono arrabbiata perché non hai lo sfrenato desiderio di offrirti di lavare i piatti. L'ho appena fatto! Perché te l'ho chiesto! Attenta, Brooke, non fare la matta adesso. Non darmi della matta, sai, io non sono matta. Non ti ho detto matta, matta, non l'ho detto, ho detto che fai la matta. In occasione dei 51 anni di Jennifer Aniston, un'icona per la generazione che è cresciuta assieme a Friends in TV, ci piace segnalare questo film di Peyton Reed, prima regista di un gioiello come Abbasso l'amore, poi di film di supereroi come Ant-Man. Questa è una commedia di scontro amoroso, romantica ma non sentimentale, con un retrogusto anzi direi amaro, e capace di fotografare una situazione emotiva comune a tantissime persone, mentre si gode la particolarità delle schermaglie di quella che mette in scena. Un film ben girato, ben scritto, con dialoghi scintillanti, è cinema di pochi anni fa, ma è cinema come non se ne fa più. E allora ricordiamo Ti odio, ti lascio, ti, giovedì 20 febbraio ore 21:10 in prima serata sulla 5. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, allora come sempre ultimo capitolo, sveliamo il game di questa settimana. Abbiamo giocato con Maleficent, Signora del Male, il sequel del film disneyano dedicato alla malefica appunto delle favole. Grazie per averci seguito, appuntamento a sabato prossimo, un saluto da Franco D'Assisi.